detto niente di male, eppure sono chiuso anch'io dentro una prigione. Tu non sei un criminale, un ladro, un assassino, e non hai fatto niente di male, eppure siamo chiusi tutti e due dentro questa enorme prigione. Siamo nati e viviamo in questa prigione, lavoriamo e soffriamo in una prigione, lottiamo e amiamo in una prigione, stiamo morendo in una prigione. Chi è quel bastardo che oggi a richiudere la vita senza una ragione? E chi siete voi, sporchi complici di questo fatto assassino? Quali speranze ci darete da mangiare oggi? Quale visione proietterete alla TV? Quale ragione di vita ci offrirete ancora? Per quanto tempo vi dovremo sopportare? Senza timore, per reggere chi ci vuole il tuo potere, non restiamo più in prigione a subire. La sensazione di essere rinchiusi nasce quando provi a scappare da una cella invisibile fatta di idee in cui ci costringono a stare. Una piccola gabbia che ci chiude la testa, che serve se non farci pensare. Voglio fare una legge, una regola imposta, che mi impedisce di essere me stesso. Senza timore, per reggere chi ci vuole il suo potere, ma restiamo qui in prigione a subire. Questa grande lotta vicina di madre, questa grande lotta vicina di madre, questa grande lotta vicina. Deve essere così bello vivere.